perché noi crediamo nei giovani, li supportiamo e lo facciamo con grande piacere, perché questo serve a farci crescere anche culturalmente e ad affrontare meglio anche il nostro lavoro, oltre che aiutare anche i giovani artisti a crescere. Mi sembra che questo premio sia destinato quindi agli under 30, non solo italiani ma anche stranieri. Sì, sì, è vero, è così, perché essendo internazionale la fiera diventa internazionale anche il premio e noi ne siamo ben contenti di poter fare questo e di continuare anche in futuro. Quindi il premio è la settima edizione, mi diceva? Settima edizione, sì. Adesso stiamo facendo il giro appunto della fiera per vedere chi è il migliore, che si vince appunto l'edizione 2013. L'opportunità che vince questo artista? L'opportunità è che dopo appunto sarà chiamato ad interagire anche con le collezioni di prodotti di Euromobil, perché noi ci teniamo molto al design e ci teniamo a calare l'arte all'interno del design, così lo nobilita anche.